Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Benvenuti e benvenute a Mebius. Allora, oggi incominceremo con crisi in Nord America per i pescatori di fiumi e laghi, mancano i vermi per gli ami. Non guardarmi così. E poi andiamo in un altro argomento completamente diverso, Frigoraid, verrebbe da dire, la fiera dei frigoriferi, ovvero tutti quegli aspetti che riguardano il funzionamento dei frigoriferi, ed è chiaramente una domanda che ci arriva da voi ascoltatori. E poi Jeremy Rifkin a Mebius, gli abbiamo chiesto perché ritiene che l'empatia sia strategica per l'umanità e perché vede un grande futuro per l'Europa. E terminiamo con i nanomondi, come questo grande orizzonte tecnologico si ispira alla natura e perché, con tutte le precauzioni del caso, dovrebbe essere anche più affidabile e sicuro. Questo partiamo. È Mebius di oggi, partiamo. Noi ogni tanto ci rammarichiamo che in radio non si possono vedere le immagini, però quelle foto lì di vermi... Sì, dai, in questo caso qui forse è un bene. Ributtante. Vabbè, ma tanto i vermi li abbiamo presenti tutti, quegli anelli di quelli un po' lunghi e un po' mollicci. Vabbè, ma... Rossastri. Sì, diciamo che... Grigiastri. Non ci mancheranno le immagini, no. Senz'altro. Vogliamo descrivere, ecco, quello che sta succedendo negli Stati Uniti e in Canada, perché abbiamo trovato questa notizia e ci tenevamo a commentarla. Allora, eccola. In realtà la fonte è piuttosto prestigiosa, perché insomma l'articolo, la notizia arriva dal Wall Street Journal, quindi diciamo che di per sé la prendiamo come buona, che titola in questo modo, insomma, i vermi da pesca non si trovano, quindi a causa della siccità e di un'estate particolarmente secca, i vermi da pesca non sono venuti su, cioè non arrivano in superficie, e quindi scoppia la bolla. Che cosa significa? Che c'è stato un boom di prezzi, i prezzi di questi vermi sono schizzati alle stelle. Adesso vedremo, anziché pagare, ecco, gli americani, anziché pagare $45 per 1000 vermi, adesso ne pagano quasi 80, quindi quasi del doppio. Da qui ovviamente un domino che ha investito tutta la parte, l'indotto e l'economia della pesca in America, che come sappiamo, insomma, un americano su due credo che abbia questo hobby e sia esatto. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di andare da un esperto italiano per farci raccontare questo mondo che forse a Mebius non abbiamo mai raccontato. Allora, diamo il benvenuto a Maurizio Natucci. Buonasera. Buonasera a tutti. Benvenuto Natucci. Lei è presidente delle acque interne della Federazione Pesca Sportiva e insomma, quando le abbiamo mandato la notizia, ha detto: oi boh, che prezzi stellari, insomma, 1000 vermi, $80, è veramente un mercato fuori mercato, insomma, in Italia non abbiamo questi prezzi e la notizia è bizzarra. Sì, in effetti in Italia quest'anno i prezzi sono come gli anni passati, forse perché comunque il tempo ha tenuto. Anzi, forse ha piovuto più del ne normale. Abbiamo più del solito. Vabbè, quest'anno non abbiamo problemi noi. No, infatti non abbiamo avuto problemi. Da noi sono i vermi, ci sono di diverse provenienze, diversi tipi, ma da noi si pagano da 25 euro a 30-35 euro il chilo. Insomma, è un chilo di vermi e sono parecchia roba, quindi non è che ci pescano diversi pescatori. Quindi da noi sono rimasti stabili i prezzi. È abbastanza incredibile che sono arrivati a $80 al chilo. In Canada, perché c'è questa crisi? Nel senso che come vengono prodotti questi vermi? Cioè, se manca acqua, ma siamo in un allevamento, dovrebbe essere facile innaffiarli, sì. O no? Sì, sì, no, ma normalmente è perché comunque questi vermi si riproducono, ci sono vermi di letame, poi si ha presente con l'humus, quello che fanno le piante, sono loro che lo creano, diciamo, mangiando determinate cose, quindi loro però praticamente se sentono umido vengono su verso il terreno, se invece è secco vanno più basso in profondità cercando, diciamo, le zone più fresche, quindi diventa anche più difficoltoso per i raccoglitori. Certo, quindi, siccome sono di allevamento, quello che ci sorprende invece è che sembra invece che negli Stati Uniti siano in natura e quindi se non c'è acqua in natura perché c'è siccità non si riescono a recuperare. Questo è un po' strano. Qui da noi sono tutti da allevamento, credo, no? Sì, sono quasi tutti da allevamento, a parte quelli, diciamo, che eventualmente se va nella zona dell'Emilia Romagna, nella Fiaduna Padana, dove ci sono molti allevamenti di vitelli, di mucche, allora non è un gran bel lavoro, però se uno lo dovesse fare da sé, dalle parti dove diciamo questi animali fanno i loro bisogni, ecco, ci spiega questo. Ci spieghi un po' meglio, scusi, lei prima ha detto vermi da letame, io l'ho sentito, adesso ci sta appunto confermando questo, ci spiega meglio come avviene questo tipo di ricerca di vermi nel letame. Sì. non è molto gradevole spiegare. Perché no, ma a noi ci piace raccontare anche questi aspetti. Vabbè, la ricerca è che comunque deve andare ai lati dove praticamente questi animali, diciamo, fanno le loro cose. Fanno le loro cose e ai lati, diciamo, lei troverà del terriccio, della terra molto morbida dove ci sono questi vermi qui. Scava con le mani, perché bisogna scavare con le mani e riesce a tirare fuori questi vermi. Sono di letame, sono chiamati letame, sono molto morbidi e sono abbastanza preziosi per quanto riguarda la pesca, che sono molto adoperati. Ma questo è sia per la pastura, per metterli in pastura, per pasturare ai pesci, sia per l'innesco, per buttarli in acqua e richiamare i pesci. Ma questo metodo che lei ci ha detto è quello che fa il singolo pescatore andando in una stalla, oppure c'è questa coltivazione a letame anche, come dire, industriale per produrre questi vermi per tutti, insomma? C'è la possibilità del singolo pescatore che non vuole andare a comprarli, ma diciamo che per la vendita ci sono gli allevamenti che fanno grande produzione. Sempre basati sul letame, però. Sul letame, l'humus, quello che viene dato alle piante. Certo, abbiamo capito che ci sono vermi e vermi, cioè non tutti i vermi sono uguali, non tutti i vermi servono per prendere lo stesso pesce, insomma. No, ci sono vermi più piccoli, vermi più grandi, ci sono dei vermi che sono quasi dei mezzi serpenti, quindi che in gergo dei pescatori vengono chiamate mamme, vengono pescati dei pesci gatti enormi, fino a 10-15 kg, quindi ci sono tantissimi tipi di vermi, vermi di terra. Quando noi qui siamo davvero molto ignoranti in questo, ma quando uno li compra un barattolino a seconda delle misure? Compra una scatola, vengono vendute a scatola. E dentro c'è un po' di tutto? No, ci sono diversi. Per il tipo di specie. Sì. A seconda della specie, ovviamente, di pesce che si vuole prendere. Dipende da quello che ne vuol fare uso, comunque, anche perché dipende dal pesce che vuol prendere. Cioè, anche lì i pesci sono raffinati, qualcuno mangia meglio, qualcuno mangia peggio. Qualcuno da dimensione mangia pesci, mangia dei vermi più grandi e qualcuno mangia vermi più piccoli. Pensi che in Italia esistono dei pesci che possono arrivare fino quasi a 70-80 kg di peso. Quindi hanno bisogno di un bel vermone. Questo tipo di pesca, come dire, viene praticata sia dagli amatori, ecco, ma anche dai professionisti. Ci sono gare, vere e proprie gare, competizioni mondiali anche. Ci sono competizioni mondiali, fra l'altro in questi giorni c'è il campionato del mondo in Croazia, quindi facciamo un augurio ai ragazzi che sono là a pescare. Ah, ma senz'altro, in bocca al lupo. Nazionale di pesca, ho capito, che avrà i suoi vermi. Però, insomma, non abbiamo risolto completamente questo mistero americano, devo dire. Il mistero, infatti, rimango abbastanza sorpreso, perché comunque penso che in America l'acqua c'è l'abbio, quindi non riesco a capire perché non riescono comunque a farli venire su. Cioè, è una cosa un po' strana. Io ho letto l'articolo, però non era specificato bene quello che andava. Come mai c'era questa grande siccità? Sì, però non riesco a capire perché, se vogliono comunque adoperare, farle venire su, c'è un sistema. Allora, senta, facciamo così, perché ogni tanto a noi capita in trasmissione che affrontiamo un tema e viene fuori un problema, così come il coniglio che esce dal cilindro e non riusciamo a risolverlo. Allora le chiediamo di provare a capire questo buco americano sul verme e poi noi ci risentiamo. Qualcuno che ci sta ascoltando, che ne sa di più, che ci sta ascoltando magari dagli Stati Uniti, che ne sa di più, magari riprendiamo la notizia brevemente, con degli aggiornamenti, giustamente. Per ora diciamo che siamo soddisfatti. Grazie mille, Presidente, buon lavoro e in bocca al lupo ai ragazzi. Grazie, crepi il lupo. Arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Hola Chiara, entriamo in un frigorifero. Sì, è una delle domande che ci arrivano dagli ascoltatori. Continuiamo la nostra saga di risponditori e allora diamo la parola a Giulio, via. Sono Giulio da Capornia a Firenze e volevo un'informazione tecnica. È vero che spostare un frigorifero domestico, quello di cucina, può arrecargli danno e lasciarlo staccato per poi riattaccarlo dopo, per esempio, un mese può creare un malfunzionamento o addirittura che non funzioni più? Questi sono problemi, esatto. Nel senso che tanta gente si trova a dover fare traslochi frequenti e quindi ci sono di questi problemi. Bene, andiamo dall'esperto allora. Giorgio Sabattini, buonasera. Buonasera a tutti. Lei è responsabile innovazione di Indesit Company, quindi un'azienda che con i frigoriferi fa tutto. Sa di cosa stiamo parlando. Voi fate tra l'altro anche molta ricerca, c'è un centro di ricerca dove fate con gli elettrodomestici le cose più strane, no? Andate, come dire, a sollecitarli in modo anche molto robusto per vedere come reagiscono, no? Sì, vero, abbiamo il nostro centro per l'affidabilità dell'elettrodomestico, dove andiamo a simulare tutte le possibili condizioni ambientali, ma anche di uso utenza del prodotto, sì, del consumatore. Allora, lei l'ha sentita, la domanda ha due aspetti. Primo, quando c'è un trasloco, e questa forse l'hai sentita anche tu, no? Certo, che non va inclinato. Sì, no, è molto delicato, non si può spostare. Questo. Poi quando va riposizionato ci sono tutte delle regole ben precise. E poi, insomma, il grande mito, non so, da sfatare o meno, del fatto che non si possa chiudere quando non è in funzione. Non si possa spegnere, per esempio, durante le vacanze. Eh sì, ma anche chiudere lo sportello, bisogna anche lasciarlo aperto. Ah, ok, benissimo. Sabatino, allora incominciamo da qui. Sì, dunque, per quanto riguarda il trasloco, direi che la caratteristica più importante di un prodotto riguarda la sua coricabilità, nel senso che il prodotto deve essere riacceso dopo il trasloco, dopo aver lasciato almeno il prodotto 3 ore nella sua posizione verticale. Questo permette ad eventuali lubrificanti o al gas che è contenuto nel circuito di riposizionarsi nelle corrette posizioni, in modo tale che al successivo riavvio non si creano dei blocchi. Direi che l'unica precauzione è questa. Precauzione è quella di lasciarlo per 3 ore, però si può coricare durante il trasporto. Allora, la coricabilità del prodotto viene indicata nel suo confezionamento, quando lo sballiamo. Dobbiamo fare attenzione a una precisa indicazione su quale lato può essere caricato o non caricato. Ci sono delle precauzioni da prendere durante il trasporto. Una volta che l'imballo non c'è più, e quindi parliamo di un trasloco che avviene successivamente, siccome questa informazione viene persa, la raccomandazione che diamo è quella di lasciarlo in posizione verticale prima dell'accensione per un tempo non importante. È meglio, ok. Va bene. Poi? E poi quando rimane spento, qui ci sono diverse scuole di pensiero, quando rimane spento, allora intanto si rovina se rimane spento, è vero, e poi è vero che bisogna lasciare lo sportello aperto, e perché? Allora, il frigorifero spento non si rovina, non succede assolutamente nulla. Per quanto riguarda invece gli odori, per quanto riguarda la chiusura, è importante lasciarlo aperto se non si è fatta una pulizia accurata prima dello spegnimento, perché potrebbero essere rimasti dei residui di cibo, quindi per odori e batteri anche, insomma. Esatto, questi residui provocano una crescita microbiologica e quindi la proliferazione anche di odori sgradevoli. Però allora, andando in vacanza, si può consumare meno energia perché possiamo spegnerlo, lo puliamo e si può spegnere. Questa è la procedura corretta: spegnerlo o premere una funzione che noi utilizziamo, la funzione holiday appunto, che permette quindi di rimanere acceso al minimo consumo, magari nella parte freezer dove lasciamo degli alimenti, ma ci consente questo in realtà anche di spegnerlo nel vano frigo. E quindi... Ah, questi sono i frigo di ultima generazione. Perché ad esempio il mio questa funzione non ce l'ha. No. Ecco, lei ha toccato un tasto interessante, qui si apre un vaso di Pandora sulla pulizia del frigo, qui ci sono diverse teorie, come? Dall'aceto ai prodotti apposta, insomma, ci racconti un pochino che cosa ne pensa anche lei. Allora, ovviamente la pulizia dipende dal grado di sporcizia che si ha all'interno del vano frigorifero, quindi diciamo che il buon panno bagnato e la sua completa poi asciugatura una volta utilizzata è la regola base che potrebbe permettere la pulizia della maggior parte dei casi. Qualora questo non lo si ritiene sufficiente, possiamo procedere con dei prodotti che anche noi consigliamo nel nostro spazio di assistenza cliente, o comunque con dei detergenti con l'accortezza che non siano abrasivi o che non siano dei prodotti con dei additivi chimici che possano danneggiare le plastiche. Aggressivi, quindi insomma bisogna stare un po' attenti, bisogna prendere i prodotti apposta, però insomma non è che succedono grandi cose. Niente di singolare. Poi volevamo anche chiederle delle temperature, no Chiara? Almeno ci dica se sbagliamo, all'interno del frigo ci sono diversi scomparti, diversi ripiani a seconda appunto della temperatura, no? In questo vano unico si è soliti dire questo alimento è meglio metterlo in alto, questo è meglio metterlo in basso. Le chiediamo allora, questa cosa è vera, cioè effettivamente c'è questa differenza di temperatura anche in un vano solo? E poi dopo sappiamo invece che la ricerca, i nuovi prodotti stanno andando verso frigo multivani, cioè separati, no? Corretto quanto detto, infatti nel prodotto dove non sono presenti cassetti dedicati c'è una leggera differenza di temperatura tra la parte più alta e la parte più bassa, proprio quella sopra al cassetto verduriera, perché se da un lato c'è una temperatura media nell'intorno dei 4 o 5 gradi, abbiamo una piccola differenza tra l'alto e il basso. L'alto, la parte più alta del frigorifero si trova a una temperatura leggermente superiore ai 5 gradi, mentre la parte sopra alla verduriera, quindi la parte più bassa, ha una temperatura leggermente al di sotto dei 5, e questa è la zona ottimale dove riporre ad esempio carne e pesce. Mentre invece i nuovi frigoriferi state facendo ricerca appunto affinché ci siano proprio dei mini frigo all'interno del frigo di fatto. Esatto. Proprio perché vogliamo dare al consumatore la possibilità di scegliere la temperatura ottimale a seconda dell'utilizzo che si vuol fare. Quindi non sono interessato a riporre carne e pesce, ho un picco di consumo di frutta e verdura, posso gestire in maniera manuale la temperatura di vani dedicati. Mm-hmm. Va bene. Senta, un'altra domanda, Sabatini. Adesso siamo tutti attenti alle prestazioni dei frigoriferi per la sostenibilità. E il frigorifero non è un oggetto che si compra ogni uno o due anni. Va bene, noi andiamo a comprarne uno e ci dà, no, ci sono lì le lettere A, più, insomma ci sono tutte queste differenziazioni. Ma questa prestazione così efficiente, e quanto dura? Perché un frigo uno può tenerselo anche 15 anni, non so, e se tiene nel tempo questa cosa? Mi ha fatto una domanda molto complessa, perché la dichiarazione che noi facciamo del prodotto ha una durata di almeno 10 anni, quindi diciamo che la classe di efficienza la si può ritenere valida per un periodo di tempo limitato, quindi vantarsi di un frigorifero che è ancora lì in quell'angolo della casa per 25 anni non è proprio il massimo. Questo perché le proprietà dell'isolamento per cause naturali vanno incontro a un deterioramento nel tempo, quindi il potere di isolamento tende un po' a calare e il consumo di conseguenza aumenta. Tende ad aumentare, quindi è vero che i componenti che costituiscono il frigorifero possono permettere il funzionamento dell'apparecchio stesso per un periodo di tempo molto lungo, però bisognerebbe prestare anche un po' più di attenzione a questo consumo crescente dovuto, ripeto, ci tengo a sottolineare, per cause naturali. Naturali. Cioè insomma una decina d'anni è un tempo che non andrebbe superato. Adesso ci facciamo la sua onestà intellettuale, ovviamente, perché non ha interessi di vendita. Non ha interessi, però è un dato tecnico scientifico, insomma, questo. Ecco, in conclusione volevamo soltanto farle una domanda sul posizionamento. Allora, deve essere davvero un po' scostato dalla parete, soprattutto per quelli, diciamo, non a incasso, e soprattutto deve avere una posizione particolare, magari non vicino al forno, ecco, ci sono delle regole? Sì, ci sono delle regole, per quanto riguarda il distanziamento dalla parete dobbiamo lasciare uno spazio per permettere al condensatore, che è quel scambiatore di calore che troviamo spesso caldo nella zona posteriore dell'apparecchio, ecco, è bene lasciarlo distaccato dalla parete almeno 3 centimetri, 3 o 4 centimetri. Ah, vabbè, insomma, non molto, ecco. In molti dei nostri prodotti troviamo infatti dei distanzieri, degli oggetti plastici che vanno posizionati per una corretta installazione, che garantiscono il rispetto della distanza per ottenere il miglior funzionamento, la miglior durata e quindi anche il minor consumo. Okay. Per quanto riguarda invece le fonti di calore, è giusto quello che lei mi ha detto, perché fonti di calore introducono un carico termico all'apparecchio e quindi sarà tanto più difficile mantenere delle determinate temperature all'interno, tanto più prossime sono queste fonti di calore. Ok. Verissimo. Posso chiedere una consulenza al volo? Il forno a microonde messo sul frigorifero non va fatto o ci può stare? Ci può stare perché non produce un riscaldamento sulle pareti esterne tali da danneggiare le prestazioni interne del frigorifero. Perché è isolato il forno a microonde. Sì. Va bene. Direi che è tutto. Sappiamo tutto. Grazie, grazie davvero Sabatini. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro, arrivederci. Buonasera. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. La società a costo marginale zero, edito da Mondadori. Questo è l'ultimo saggio di Jeremy Rifkin. Molte recensioni e interviste sono uscite in questa settimana, durante le quali Rifkin ha presentato il suo libro al pubblico italiano. L'abbiamo invitato anche noi a Mebius, chiedendo però di spiegarci un particolare concetto che emerge dalle sue analisi, del quale meno si parla. Si tratta del ruolo che lui attribuisce all'empatia, un'attitudine umana. Lui dice che è di fondamentale importanza nello sviluppo della società. Empatia che è in crescita, sostiene Rifkin, anche se di questi tempi possa sembrare l'opposto. E poi gli abbiamo anche chiesto su quali basi poggia il grande futuro che lui attribuisce al nostro paese, il nostro paese, cioè l'Europa. Allora, come dicevo, siamo partiti da una domanda e poi ve ne sarà anche un'altra dedicata appunto al tema dell'empatia. Vi dico anche che da questo momento, se andate al sito nostro della trasmissione www.moebiusonline.eu, troverete anche il link a un video, una sua conferenza nella quale spiega gli aspetti fondamentali, temi fondamentali del suo saggio. Allora, sentiamo Jeremy Rifkin. You know, in this emerging zero marginal cost society, hundreds of millions and eventually... In questa società che sta muovendosi verso un costo marginale molto prossimo allo zero, avremo milioni di persone e in futuro miliardi di persone che potranno collegarsi a quella che io chiamo la super internet delle cose e lo potranno fare in tempo reale per produrre e condividere informazioni, energia rinnovabile e prodotti stampati con stampanti tridimensionali, il tutto tra l'altro, come dicevo, a costo marginale vicino allo zero. Questo ci porta naturalmente a considerare in modo completamente nuovo la biosfera. La biosfera sono quei 40 miglia che ci distaccano dalla stratosfera e che permettono agli esseri umani di interagire con la chimica della Terra, con tutte le dinamiche del nostro pianeta. Ora, i giovani si sono abituati già negli ultimi anni a comunicare in questo modo, in modalità virtuale, e lo faranno in modalità fisica in futuro. Attualmente i ragazzi comunicano via Skype all'interno delle aule, utilizzano Facebook per raccontarsi le proprie storie, usano Twitter per magari sparlare di qualcuno, guardano e condividono video su YouTube o per le ricerche magari utilizzano Google. Ciò che fanno, sanno, ha un impatto sicuramente ecologico, sanno che tutto quello che viene fatto in modo virtuale e anche ovviamente in modo fisico ha un impatto sulle risorse, sul cibo disponibile su questa terra, e diventa importante quindi a questo punto poter considerare che il nostro benessere su questo pianeta dipende dalla possibilità di sostenere anche gli altri. Questo cambia completamente il paradigma, nel senso che la comunità si allarga e quella che noi consideravamo empatia, quindi il rapporto che il singolo individuo riesce ad avere in genere con la propria famiglia o al massimo con la comunità all'interno della quale vive, è un qualche cosa che si può estendere molto oltre per creare una famiglia di simili con tutta la razza umana e una famiglia che possa portare ad un'ulteriore evoluzione, democratizzando considerevolmente il nostro mondo dal punto di vista economico e in senso più generale, garantendo una maggiore sostenibilità per il pianeta. And it helps move us into a new, more democratic world and a more sustainable civilization. Quindi, secondo lei, ci sono possibilità di continuità, di crescita in questo progresso dell'empatia? Ora, negli ultimi anni, con questa grande crisi tremenda che abbiamo vissuto e anche direi rispetto agli ultimi mesi nei quali, se guardiamo quello che sta succedendo in molte parti del mondo, io penso che certamente molta gente possa pensare in modo negativo alla possibilità che si sviluppi empatia, mentre invece lei resta positivo su questo aspetto. Yes, I am, because what we're learning is that human beings are the most social creature on the planet. We have the biggest neocortex. Sì, io penso di sì, nel senso che sappiamo di essere degli esseri sociali. Su questo pianeta gli uomini cercano di socializzare. Gli scienziati hanno studiato la neocorteccia e la neurobiologia a questo punto ci insegna che il nostro cervello reagisce anche in conseguenza a quello che sentono gli altri nostri simili. Faccio degli esempi. Se vedo sul suo braccio un ragno, automaticamente sentirò io un fastidio. Non è una questione intellettuale, è una questione proprio fisica. Lo stesso vale per il dolore. Se dovessi vedere qualcuno sanguinare, automaticamente mi sentirò male o comunque sarò colpito da questa cosa. Quindi dal punto di vista fisiologico e psicologico effettivamente siamo in grado, in qualità di esseri umani, di sentire la gioia piuttosto che il dolore degli altri, di sperimentare su di noi queste sensazioni. Succede per noi esseri umani e per pochissime altre creature presenti sul pianeta. Siamo uomini empatici, siamo proprio homo empaticus e non siamo quello che molti ritengono egoisti, assolutamente indipendenti, predatori, materialisti. Cerchiamo invece di collegarci agli altri attraverso l'affetto, attraverso appunto l'empatia, e cerchiamo, questo lo ha dimostrato la neurobiologia, di estendere questo rapporto al maggior numero di persone possibile. Quindi lo vediamo attraverso il fatto che molti hanno cercato di farlo in passato e adesso invece ci troviamo di fronte ad una nuova modalità, ad una nuova storia. Ora con la società a costo marginale a zero si deve sviluppare un nuovo sistema economico, e quello che io chiamo il sistema economico di condivisione nei commons collaborativi. Nel XIX secolo si sono sviluppati capitalismo e socialismo. Questo, secondo me, quello dell'economia di condivisione nei commons collaborativi, è un evento storico altrettanto importante. Certo, continuerà a rimanere il capitalismo, ma si dovrà affiancare a questa nuova economia di condivisione che prevede una maggiore empatia. Il mercato capitalistico ha cercato sempre di concentrarsi sugli interessi del singolo. Sappiamo da Adam Smith che soltanto concentrandoci sull'interesse individuale è possibile migliorare il benessere nella società. E invece la nuova generazione vede questa economia di condivisione nei common collaborativi a costo marginale zero come un'idea nuova da intraprendere. Infatti i giovani stanno cercando sempre più di diventare degli imprenditori nel sociale, vogliono condividere la propria creatività, i propri talenti, e cercano di sviluppare nuove idee per poi distribuirle a tutti gli altri in modo gratuito, a costo marginale zero per l'appunto, in modo che tutti ne possano trarre vantaggio. Questo naturalmente significa maggiore empatia. La nuova generazione attualmente già condivide musica, video, blog di notizie, utilizza Wikipedia in modo gratuito, appunto a costo marginale zero, proprio per condividere. E nel futuro, tra l'altro, ci saranno anche condivisione delle energie verdi e addirittura la produzione di prodotti con stampanti tridimensionali, che consentirà alla distribuzione e la condivisione di prodotti fisici veri e propri in modo assolutamente aperto e gratuito. Io penso che questo possa soltanto espandere il concetto di empatia. Ora i giovani vogliono connettersi il più possibile agli altri, in modo virtuale ovviamente, ma anche in modo fisico. Ed è per questo motivo, io sono abbastanza speranzosa, è per questo motivo che ho scritto il libro proscritto. Nel futuro questi giovani diventeranno tutti dei prosumer, in parte produttori, in parte consumatori, capaci appunto di condividere tutto quello, beni e servizi che saranno in grado di produrre con l'economia condivisa nei commons collaborativi. Già adesso succede, condividono le proprie macchine, condividono le case, attraverso Airbnb per esempio, giusto per fare un esempio. Quindi secondo me ci sarà una maggiore vicinanza a livello mondiale, ci sarà un approccio, se vogliamo, più familiare, che porterà ad una maggiore empatia. È un riferimento all'economia condivisa nei commons collaborativi che porterà appunto più empatia, più democratizzazione e maggiore sostenibilità. democratizing economic life and making a more sustainable planet for us to live in. So I'm guardedly hopeful about the future. Io so che lei assegna un ruolo importante, positivo e anche decisivo all'Europa nel futuro. Naturalmente possiamo sottolineare questo potenziale, perché certo non possiamo essere sicuri che questo sia un processo automatico, però certamente ci fa molto piacere questo tono ottimistico. Per quale ragione lei pensa che ci sia questo grande potenziale europeo? You know, I remind my American colleagues that the European Union with its 27 members. Sì, io in effetti amo ricordare ai miei colleghi americani che l'Europa, l'Unione Europea, rappresenta 27 stati. E questi 27 Stati Uniti hanno un PIL che è superiore a quello dei 50 Stati degli Stati Uniti messi insieme. Quindi l'Unione Europea è una potenza economica davvero formidabile. E poi, tra l'altro, la cosa che in particolare mi interessa a proposito dell'Unione Europea è che è un nuovo esperimento di governo. Il sogno europeo è un qualche cosa di estremamente interessante, perché si oppone al concetto dell'individualismo e del successo materiale, che è invece caratteristica tipica degli Stati Uniti, per concentrarsi invece sulla qualità della vita. Si concentra sulla possibilità di migliorare la qualità della vita. Negli Stati Uniti si vive per lavorare, in Europa si lavora per vivere. Negli Stati Uniti l'individuo cerca di risultare del tutto autonomo, in Europa si creano delle comunità che cercano di vivere in armonia. Negli Stati Uniti il governo, la presenza politica all'estero, la sua posizione geopolitica è forte con la presenza dell'esercito, mentre l'Europa cerca di creare dei ponti di pace che possano garantire uno sviluppo economico non solo per sé ma per gli altri. Quindi direi che ci sono tanti sogni che possono trasformarsi in realtà, che mi risultano estremamente interessanti. E poi l'Europa è, secondo me, la fabbrica del mondo, è continuamente capace di ripensare. Certo, ci sono tante sfide, sono tanti problemi, bisogna molto spesso ripensare alla missione europea, però è anche l'Unione che si è battuta fortemente contro la guerra per garantire appunto maggiore empatia con il resto del mondo. L'Europa è uno spazio di pace, è uno spazio dove questa nuova esperienza per la gestione anche a livello politico sembra funzionare abbastanza positivamente, tanto è vero che anche in Asia adesso si sta cercando di costituire un'unione politica, così come in Africa è già stata costituita e anche nell'America Latina. Tutti hanno seguito l'esempio europeo, perché l'Europa, l'Unione Europea, rappresenta una modalità di governo che opera attraverso una rete di collaborazione per garantire maggiore pace a tutti quanti, più democrazia e in un certo senso una famiglia estesa dove appunto la pace e il rispetto reciproco diventano davvero importanti. La capacità di empatizzare quindi è una delle caratteristiche principali. Quindi sì, sostanzialmente sono abbastanza positivo. Secondo me l'Europa giocherà un ruolo davvero importante in futuro. And to secure the well-being by building bridges of peace. I'm guardedly hopeful about the European dream. Jeremy Rifkin, thank you for your participation. Well, thank you very much for inviting me to be on with you again, and I hope we stay in touch in the future. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Il nanomondo, potremmo intitolare così questo spazio nella nostra trasmissione di questo sabato. Per parlare di nanomondo ho qui con me questa sera Roberto Cingolani. Buonasera Cingolani. Buonasera a voi. Direttore scientifico dell'IIT, l'Istituto Italiano di Tecnologie, uno dei nostri centri di ricerca più prestigiosi. Parliamo di questo tema perché lei ha appena tenuto una conferenza al Festival della Comunicazione che si svolge a Camogli, che si tiene appunto in queste giornate. Tra l'altro avvisiamo insomma i nostri ascoltatori che ci sono davvero tanti interventi molto interessanti, molto diversi fra loro. Andate in un sito internet e digitate Festival della Comunicazione e certamente trovate tutto il programma. Allora Cingolani, lei ha parlato al Festival di nanomondo, anzi forse nanomondi, però so anche che sta per uscire un suo saggio che ha praticamente lo stesso titolo. Sì, che gli assomiglierà, diciamo quasi. il nanomondo è un po' una, così, un nuovo concetto che stiamo cercando di divulgare. Cioè, l'idea è che come la natura costruisce sostanzialmente qualunque cosa vivente e non vivente partendo da pochi atomi e mettendoli insieme, la tecnologia oggi si avvicina a questo stesso approccio e quindi si cerca di ricostruire, spesso di imitare la natura mettendo insieme gli atomi e costruendo da zero materiali, oggetti, sistemi. Ed è veramente un mondo, non è una nuova tecnologia come tante altre, è qualcosa di orizzontale che percorre praticamente tutti i settori, sia della ricerca scientifica che dell'applicazione dell'innovazione tecnologica. Ecco, i nostri ascoltatori sanno, Cingolani, che stiamo seguendo questa evoluzione, diciamo, delle nanotecnologie già da circa 3 anni con dei progetti europei, e quindi ogni tanto noi parliamo di questa tematica. E all'interno di questi progetti noi abbiamo fatto delle indagini, sentendo anche il pubblico per raccogliere delle opinioni su quelle che sono le loro idee rispetto a questo mondo delle nanotecnologie. E le devo dire che ogni tanto quello che viene fuori, abbastanza, diciamo, con continuità, è che le persone alle quali andiamo a chiedere che cosa pensano delle nanotecnologie applicate qui, applicate là, poi a un certo momento ci dicono: però, oh ragazzi, abbiamo capito che è una cosa talmente vasta, ci perdiamo dentro, cioè non riusciamo ad esprimere un'opinione. È difficile, non so se lei pensa che questa sia una reazione comprensibile da parte del pubblico. Ma sì, io credo che vada un po' vista alla luce di che tipo di rappresentazione, che tipo di argomento si discute quando si parla di nanoscienza, di nanomondo. Vede, oggi noi possiamo parlare di nanotecnologia e nanoscienza in termini di nuova manifattura. Faccio un esempio: i composti superleggeri, i nanocompositi, la fibra di carbonio per biciclette, auto, moto, aeroplani. Ne possiamo parlare per information technology, faccio l'esempio dei cellulari, di tutto quello che oggi è la comunicazione fatta con questa elettronica che ha transistor di poche decine di nanometri, ma ne posso parlare per applicazioni energetiche, sorgenti di energia miniaturizzate, per applicazioni all'ambiente, per esempio la catalisi, la pulizia dell'acqua in materiali biodegradabili, alla salute, per la cura molecolare di malattie gravi, per le diagnostiche di nuova generazione. Allora, a seconda di quale settore io vado a toccare, in realtà tocco corde diverse della percezione culturale delle persone, no? Cioè, è chiaro che se parlo di salute e spiego o presento i vantaggi della diagnostica, i vantaggi di certe terapie, è ovvio che la reazione non possa che essere una reazione estremamente positiva, di grande aspettativa. Se parlo dell'impatto ambientale di certi materiali, posso ottenere reazioni completamente diverse, perché se parlo di una nanotecnologia che purifica l'acqua potabile, ovviamente la reazione è ottima. Se parlo di potenziali pericoli di nanocomponenti che possono essere ingeriti o respirati, addirittura la reazione di allarme. Esatto, ci vuole una grande precisione, una grande onestà intellettuale nel presentare i pro e i contro di queste tecnologie trasversali. Cioè, bisogna raccontare questa diversità. Però le faccio una domanda difficile che viene fuori, credo, proprio dal pubblico, e cioè: è vero che ci sono tutte queste differenze, però poi il pubblico, la gente percepisce che c'è una partenza di base, che è questo ingresso nel nanomondo e la possibilità di lavorare a questa dimensione. Allora, se andiamo a chiedere loro che cosa ne pensano in termini, appunto, di sicurezza in generale, è chiaro che viene fuori una domanda, come dire, unitaria, e cioè dicono: va bene, si possono fare tutte queste cose diverse, a seconda di quello che mi chiedete sono più o meno favorevole, un po' a naso, ma ci può essere un problema di sicurezza, di garanzia, di sostenibilità a priori, cioè rispetto ad altre tecnologie che abbiamo avuto, questa grande nuova novità è mediamente, lo chiedono agli esperti, più sicura, più pericolosa invece? E questa è una domanda di base che sorge. Cioè, è una domanda assolutamente comprensibile e attesa. Guardi, io le rispondo in questo modo. Noi dobbiamo partire da un'indicazione molto semplice. Il nanometro, il miliardesimo di metro, è una scala di lunghezza in cui normalmente madre natura allinea 3 atomi, d'accordo, come idea. Quindi se io ho una tecnologia che mi consente di vedere, manipolare, costruire oggetti con precisione del nanometro, di fatto vuol dire che sto operando con 2-3 atomi alla volta, no? In realtà sono un creatore di materia atomo per atomo. Allora, se io vado a vedere ciò che ha fatto l'evoluzione in 3 miliardi di anni, l'evoluzione ha fatto crescere tantissimi oggetti, proteine, DNA, composti biologici, organici, che sono su questa scala di dimensione. Sì. E li ha fatti mediamente tutti con idrogeno, ossigeno, carbonio, sempre con gli stessi atomi, che sono quelli caratteristici del mondo organico, del mondo vivente. Mm. Sono atomi, come dire, sdoganati, autorizzati dall'evoluzione, dalla biologia, a fare il loro mestiere senza essere tossici, no? Sì. Se lei pensa, tutto ciò che è vivo è fatto così, ed è fatto con oggetti nanometrici. Sì. Allora, finché noi copiamo o ci ispiriamo a queste architetture, a questi sistemi, abbiamo una ragionevole certezza che quello che stiamo facendo, essendo bio-ispirato, quindi ispirato all'evoluzione, alla biologia, non possa portare grandi margini di pericolo, no? Perché sono architetture consolidate. Ora, il discorso diventa un po' diverso se io comincio a lavorare con atomi nella tabella periodica degli elementi che non sono quelli tipici del mondo vivente. Gli ascoltatori sanno benissimo che ci sono un centinaio di atomi in natura, no? nella tabella degli elementi, un po' di più. Ora, se io lavoro con idrogeno, carbonio e ossigeno, sono più o meno nel dominio della vita. Se comincio a prendere lantanidi, metalli particolari, e anche lì comincio a fare oggetti molto piccoli di pochi atomi, devo essere sicuro che questi oggetti in qualche maniera possano essere compatibili con un sistema vivente, perché il nostro sistema immunitario non è fatto per vedere e bloccare un oggetto più piccolo di qualche centinaio di nanometri, tranne quelli che sono appunto già autorizzati dall'evoluzione, quelli che abbiamo dentro e che insomma normalmente ci sono e fanno il loro mestiere. Sì. Allora qui si pone un problema di innanzitutto metrologia, cioè noi dobbiamo sapere esattamente cosa facciamo, cosa costruiamo, quando si parla di materiali che normalmente non sono materiali di essere viventi. Poi si tratta anche di capire dal punto di vista regolatorio qual è la definizione di pericolo, no? Un oggetto può essere tossico. Le faccio un esempio che è capitato nei nostri laboratori, no? Una sferetta di oro che ha un diametro di 20 miliardesimi di metro, diciamo una sessantina di atomi di diametro, quindi si immagini piccolissima, ecco, questo è oro, no? Quindi è assolutamente biocompatibile, ci facciamo le protesi dentali, siamo convinti che l'oro sia biocompatibile. Ebbene, se questo oggetto però diventa così piccolo, non è vero che è compatibile, anzi dimostra di avere una certa tossicità, non nulla di particolarmente pericoloso, ma diciamo può avere degli effetti. Però c'è un cambiamento forte nel comportamento. Guardi, c'è anche una spiegazione semplice, la reattività chimica di un sistema dipende normalmente da quanti atomi ho sulla superficie. Se io ho una pallina piccola, statisticamente quasi tutti i suoi atomi sono sulla superficie, perché dentro la pallina c'è poco spazio per avere atomi dentro, diciamo. Allora, un oggetto che è tutto superficie è più reattivo chimicamente di un oggetto invece grosso che ha quasi tutti gli atomi nel suo volume. Allora, anche un materiale biocompatibile di eccellenza come l'oro, se lo porto a questi livelli di dimensione piccolissima, può diventare tossico. Allora qui nasce il problema. Qual è la definizione di tossicità? Se io lo uso per uccidere una cellula malata, chemioterapico, mi fa comodo che sia tossico. Se invece io lo metto incautamente in un cibo perché lo voglio colorare di oro, no? Non ci siamo. È una stupidaggine, perché insomma, francamente mi prendo una roba tossica che non ha senso. Allora, il concetto di tossicità è connesso alla dose, cioè a quanta ne posso prendere senza essere avvelenato. È connesso alla dimensione, alla forma, alla composizione chimica di questi sistemi, che va studiata a livello atomico, cioè li devo proprio vedere quasi atomo per atomo. E poi va connessa anche a come io entro in contatto con questi oggetti. Li mangio? Li respiro, come il particolato del traffico? Li tocco, perché non sono un inchiostro? Certo, bisogna stare attenti a non fare quello che si è fatto con l'amianto, no? Esatto. Pensava che le fibre di amianto fossero una grande soluzione e creavano più problemi che soluzioni, poi si è visto. Ma su questo c'è molta coscienza adesso, cioè la scienza lavora su queste cose. È una lezione ben appresa, direi. Sì, lei dice che abbiamo le conoscenze e gli strumenti per operare con cautela. E coloro che sottolineano in generale degli aspetti positivi dicono anche che sappiamo, no, che una serie di grossi problemi nell'applicazione di tecnologie sono derivati dalla quantità di materiale che abbiamo immesso in natura. Con le nanotecnologie si potrebbero ottenere risultati estremamente interessanti con quantità di materiale enormemente inferiori. Questo già dovrebbe essere, no, un vantaggio interessante. Molto, questo è un aspetto molto interessante, e riguarda la manifattura, uno dei primi settori che l'ho menzionato prima. Vede, oggi per esempio prendiamo il mondo dell'elettronica, no? Il mondo dell'elettronica usa delle tecnologie che sono quelle degli scultori, no? Cioè io parto da un cubo di silicio e poi faccio litografia, cioè rimuovo del materiale in modo che alla fine mi rimane un basso rilievo, no? Che è quello che poi è il mio chip. Ora, ovviamente ho semplificato, ma diciamo il concetto è: levo materiale, parto da un oggetto grosso per farlo piccolo. E quindi spreco la maggior parte del materiale, lo spreco perché dal blocco di marmo ricavo la stampa, sì. Questo lo butto. Immagini invece l'approccio nanotecnologico più recente è quello di dire: parto dagli atomi di silicio e costruisco la struttura, come se Michelangelo avesse fatto le sue grandi statue, invece che usando lo scalpello e rimuovendo il materiale, costruendole atomo per atomo. Sì. Chiaro che risparmio materiale. Questo è sicuramente un punto fondamentale. Il secondo punto, che secondo me è meno percepito ma è più rilevante, è che io posso modificare dei materiali che altrimenti getterei, scarti alimentari, carta, fibre, materiali che natura, e li posso modificare in modo da renderli più funzionali, non so, più duri, più resistenti, riciclabili, o che so, conduttivi elettricamente. Quindi io posso recuperare del materiale che per me sarebbe dello scarto, per farne del materiale intelligente che posso utilizzare al posto, casomai, non so, di plastica che dovrei produrre da petrolio o di altri materiali che invece hanno un impatto ambientale importante. Ecco, questo è un aspetto delle nanotecnologie nuovo, molto importante, perché crea dei materiali intelligenti a partire da materiali stupidi, da materiali di risulta, diciamo. Senta Cegolani, molto rapidamente le do un paio di minuti per dirci qualcosa su questa notizia che è arrivata in agosto, che non è il momento migliore, di una vostra ricerca su una batteria che ha delle prestazioni del 25-30% superiori a quelle in circolazione. Siamo tutti alla ricerca di batterie che possono... Sì. Com'è questa storia? Ma guardi, questo è il classico caso di, diciamo, di contaminazione di settori diversi, no? Cioè, le batterie al litio sono notoriamente delle batterie che hanno delle caratteristiche molto buone e in una configurazione abbastanza standard utilizzano un contatto, l'anodo di grafite. La grafite grosso modo è quello che noi usiamo nella matita per scrivere, diciamo, una cosa a base di carbonio. Ora, un materiale molto più sofisticato, molto più pregiato della grafite è il grafene, che ha vinto il Nobel pochi anni fa, che è sempre fatto da carbonio, ma è fatto, diciamo, in lenzuoli ordinati, dove io ho tanti esagoni con il carbonio ai vertici che sono perfettamente allineati, uniti come in una rete, diciamo. Allora, sostituendo l'anodo originario, il contatto originario di questa batteria, quindi senza cambiare la batteria rimane quella che è normalmente, ma mettendo un contatto fatto di un materiale nanotech molto più prestante della grafite, che è più disordinata, le prestazioni di questa batteria aumentano sia come capacità di energia, diciamo, accumulata, che come numero di cicli di ricarica. In altre parole, la posso ricaricare più volte. Ora, il prototipo funziona, è piccolo, funziona molto bene. Adesso stiamo discutendo ovviamente con aziende del settore per capire se si può fare un po' di sperimentazione sulla scalabilità per grandi dimensioni e grandi numeri, perché poi sa, questa è roba che deve essere fatta in miliardi di pezzi. Comunque è estremamente promettente come risultato. Grazie Cingolani per questa sua partecipazione a Mebius e buon lavoro, buona ricerca. Grazie e buona serata. E con questo sogno che forse si sta realizzando di batterie sempre più performanti, Mebius vi saluta e vi dà appuntamento qui fra 7 giorni a Radio 24. Buona settimana a tutti e a tutte.